senza di te. Torno a casa, non so il perché, non ti trovo, vivi così, te la spassi dietro di me. Riesco sempre a volerti bene, come un fesso di aspetto, e poi mi aggredisci tu. Mille scuse mi trovo e poi dici sempre che io per te sono l'unica cosa che riesce a vivere dentro te. Mi accarezzi come sai tu, due secondi riesci a farmi stare bene tu. Ed io non vivo più, la gelosia mi brucia il cuore e non resisto più. Voglio capire in quale ruolo mi sto trovando, in quale posto del tuo cuore, in quale modo stai amandomi. Voglio cercare impossessarmi dei pensieri che governano la mente tua. Il tuo mondo chissà qual è, col tuo vivere sola con te, sempre bella ti fai per chi, quando a sera torni da me, molto stanca ti senti e poi, due minuti riusciamo solo a litigare noi. Siamo liberi, dimmi per chi, stiamo insieme senza un perché, non mi cerchi nemmeno un po', se ti parlo mi ignori e poi, quando cerco di amarti in te, si rivela qualcosa e so che tutto è inutile. Ed io non vivo più, la gelosia mi brucia il cuore e non resisto più. Voglio capire in quale ruolo mi sto trovando, in quale posto del tuo cuore, in quale modo stai amandomi. Voglio cercare impossessarmi dei pensieri che governano la mente tua. Mi sto trovando, in quale posto del tuo cuore, in quale modo stai amandomi. Voglio cercare impossessarmi dei pensieri che governano la mente tua.